come l'aria che respiro quando vivo. Bella come, bella come, bella come, bella come un fiore. Bella come, bella come, bella come un fiore. In paradiso. E gli inverni finiscono, i profumi ritornano. Se parlo di te, se parlo di te, se parlo di te, tu sei. Lasciatela fare. Quando vivo, bella come un fiore. Bella come un fiore. Bella come un fiore. Come gli angeli dormono, i ricordi svaniscono. Se parlo di te, che ho avuto fresca come l'aria che respiro quando vivo. Questa sera c'è solo lei che vuole ballare. Questa sera suono per lei. Bella come un fiore, bella come un fiore, bella come un fiore.